nato da un sogno. Dici di essere stella cadente sul mondo. Io che emergo dal profondo, schiavo della mia voce, ma mi ha portato a te. Non ti prego, ma non lasciarmi andar via. Non son qui per spogliarti della libertà. Il vento spingerà le nostre ali e chissà domani dove l'anima andrà. Tu, come un coro soave, una tempesta di parole, porti con te la poesia. Io, un antico guerriero, è una battaglia infinita contro l'ipocrisia. Non ti prego, ma non lasciarmi andar via. Non son qui per spogliarti della libertà. Il vento spingerà le nostre ali e chissà domani dove l'anima andrà. Lasciarmi andar via, non son qui per spogliarti della libertà. Il vento spingerà le nostre ali e chissà domani dove l'anima andrà.